Il nostro sin dall'inizio è stato un piano contro l'immobilismo e l'attendismo, perché attendere è un modo per chiudere una fabbrica ogni giorno, anche quando una chiusura magari non è formalizzata o un licenziamento non è formalizzato. Le grosse crisi industriali in Italia, che durano anni, in realtà sono una forma mascherata di chiusura, dando l'impressione alla società che invece qualcosa si stia facendo, quando in realtà non si fa nulla. Noi abbiamo presentato in questi 2 anni più volte dei nostri piani industriali. Il nostro piano, quello principale, è quello di un intervento pubblico complessivo che intervenga sulla transizione energetica e climatica. In assenza di questo, come dicevi giustamente, non stiamo con le mani in mano, e quindi abbiamo anche un piano di reindustrializzazione dal basso, che comprende tra i vari strumenti anche quello di una cooperativa. La protocooperativa è un primo nucleo che serve a iniziare a fare accordi commerciali, ad avere un veicolo giuridico per andare avanti, e speriamo abbia come attacco a 3 punte il fatto di avere una produzione cargo bike, di pannelli solari e altre attività legate alla meccanica. Avete già anche l'idea sulle produzioni, che ovviamente sono sostenibili. Sono sostenibili, sono ecologicamente avanzate, ma non ci accontentiamo di dichiararlo. Noi speriamo che dentro la futura cooperativa ci sia una quota importante di soci finanziatori legata a movimenti climatici, sociali, che ci aiuti a tenere il sentiero dritto sull'aspetto sociale, mutualistico della cooperativa e sulle produzioni, perché noi non fondiamo una cooperativa illudendoci con questa mossa di scalzare il sistema. Questa è una cooperativa che nasce dentro un sistema che premerà sulla cooperativa per distorcerla e per portarla ad essere un'azienda qualunque, e anche per autoimporci forme di autosfruttamento, come purtroppo succede in un'azienda che comunque è capitalistica. Quindi noi ci auguriamo che questi 2 anni di lotta congiunta tra movimenti sociali, sindacali e la lotta GKN continui, perché questo passaggio della reindustrializzazione dal basso non diminuisce la necessità di questo tipo di convergenza, ma anzi la porta a un livello superiore, nel senso che ora la lotta è per la fabbrica, per i posti di lavoro, per il salario, a questo punto anche per le competenze solidali con cui tornerai a produrre. Però in questo modo, come dire, sia la proprietà che le istituzioni non hanno più alibi. È il metodo che abbiamo avuto sin dall'inizio, togliere alibi a tutti. I nostri corpi hanno di fatto impedito una delocalizzazione, abbiamo detto che ci voleva una legge, che poi non è stata approvata, ma noi l'abbiamo presentata. Poi ci siamo resi conto che il logoramento era la tattica con cui volevano arrivare a quei licenziamenti, e abbiamo resistito a quel logoramento. E ora di fatto abbiamo un piano industriale che, come tutti i piani industriali, sarà verificato giorno giorno, perché così funziona, e una protocooperativa che quantomeno si toglie alibi. Nel frattempo continua la vostra lotta più sindacale, diciamo così, per le spettanze che appunto vi spettano. L'assedio del reddito e della fame, della terra bruciata e le calunnie è stato parecchio intaccato, ma ancora non è concluso, perché ci stanno arrivando via via le rate della cassa integrazione, che sono abbastanza misere, però QF continua, la proprietà continua a non pagare tutto ciò che ci spetta, le giornate di lavoro, permessi, ferie, TFR e così via. Quindi siamo ancora in una condizione in cui non possiamo dire di avere uno stipendio, e questo rischia di far continuare l'emorragia di persone che devono invece riacquisire uno stipendio pieno, e probabilmente questo è anche un rischio calcolato, insomma.